E allora, buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa, questa è La Conta, trasmissione contro il carcere. Oggi è mercoledì e sono le 15:05 minuti primi e quindi inizia, come ogni mercoledì, La Conta. Dunque, iniziamo da una questione, come dire, penosa, però esistente, è la realtà del carcere italiano e c'ha delle insieme all'interno di quel coacervo di misure così tremende che tendono a distruggere l'individuo, a nient'altro serve quello, a distruggere, a devastare l'individuo, ci stanno però delle punte eccessive. Questa volta è uscito, perché è uscito questa iniziativa, si chiama Telefono Giallo e si riferisce ai bambini e le bambine che hanno i genitori in carcere e che quindi ogni tanto vanno a fare i colloqui. Vivendo da bambini e bambini appunto il trauma di entrare in un carcere e trovare dall'altra parte dei muri, delle sbarre, del bancone e il proprio genitore. Sono 100.000, dice questa valutazione, 100.000 i bambini e le bambine che ogni anno entrano in carcere per incontrare il papà o la mamma che sono detenuti. Il problema qual è? Che c'è stata tutta una grande discussione, una bagarra anche perché anche queste persone, bambini e bambini ovviamente molto piccoli, al di sotto dei 12 anni, hanno dei diritti. Questa società, quella in cui viviamo, si dimentica di queste cose. E qual è il diritto allora di questi minorenni al mantenimento del legame affettivo e anche al diritto alla genitorialità, tanto strombazzato dalle costituzioni, dall'ONU e così via? Chiaramente non se immaginate la scena di un bambino o una bambina che a volte appunto avendo il padre e la madre o il padre o la madre o anche tutte e due dietro le sbarre sono accompagnati da qualcuno che può essere anche un assistente sociale oppure un parente e quindi entrano diciamo abbastanza spogliati da ogni difesa affettiva dentro a quell'insieme di mondezza di aggressività che è il carcere. Entrano, vengono, devo depositare il documento perché quello è ovvio, è un obbligo, devono firmare una carta, devono essere perquisiti, devono lasciare i propri oggetti, quindi qualche centesimo di euro nel cassettino perché gli oggetti metallici suonerebbero e poi perché i soldi non possono entrare in carcere, da tutta una serie di devono aspettare nella sala d'aspetto e poi finalmente entrare nella sala colloqui, che è una delle cose più tremende che esiste nel carcere. Bene, allora tutto questo continuerà, questo dramma, questo disastro. L'unica cosa che hanno fatto, questa grande democrazia che in cui viviamo, ha fatto queste cose per conto di un'associazione, dall'altro un'associazione si chiama Bambini Senza Sbarre, che ogni tanto fa iniziative che può fare all'interno degli interstizi delle leggi, dei regolamenti italiani, ha lanciato questo, un numero di telefono e un'app, un'applicazione per chi ha lo smartphone. Il numero di telefono è 02 711 998, ripetiamo 02 711 98, un telefono proprio per i bambini o le bambine, comunque chi deve accompagnare i minorenni a visitare, ai colloqui in carcere per visitare il padre o la madre che stanno detenuti. E poi c'è anche appunto questa app Telefono Giallo, potrebbe dare comunque a chi ha in possesso lo smartphone una serie di indicazioni, possono fare domande per sapere per esempio cosa possono portare ai colloqui, quanto dura, ogni quanto sia, cioè tutto il meccanismo che ovviamente immagino i bambini e le bambine non sanno perché non rientra nei propri interessi né nella didattica che nelle scuole medie, elementari, medie o anche superiori si insegna in questo paese, perché il carcere viene mantenuto distante come se non ci fosse, in realtà poi c'è. Vabbè, insomma, queste sono le informazioni, è già qualcosa nella miseria totale in cui viviamo. E vabbè, insomma, c'è questa associazione lancia questi iniziative, questo telefono giallo, perlomeno per dare un contributo di informazioni a coloro che appunto ogni settimana vanno a trovare i propri genitori in carcere. Passiamo all'altro, un altro argomento, questo di più grosso spessore, ovviamente, che interessa la gran parte dei, non solo chi ha figli che vengono a trovare in carcere. Ricordiamo che c'è ancora, nonostante tutti gli strombazzamenti, non solo i bambini e le bambine che ogni settimana vanno a trovare i propri genitori in carcere, ma ci sono dei bambini e delle bambine che nascono, sono nate in carcere e continuano a vivere in carcere 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, 365 giorni l'anno. Questa è la democrazia. Probabilmente l'intendono così, non ho mai amato questo modo di dire, anche perché la democrazia andrebbe sempre accompagnata da un altro sostantivo, altrimenti non si capisce cos'è. Ci sono stati sistemi democratici che si basavano su un modo di produzione schiavistico, no? Per esempio le democrazie antiche erano democrazie, cioè per quella piccola parte di cittadini che non superavano il 10%, che vivevano senza far niente, quindi potevano discutere, parlare, ragionare e decidere tutti insieme sulla piazza, perché c'era il 90% dei schiavi che producevano tutto quello che serviva a loro, dalle scarpe al mantello, al mangiare e così via. Quindi la democrazia schiavistica francamente ci entusiasma poco. Poi ci sono state varie democrazie, quella borghese rivoluzionaria che qualcosa sembrava volesse promettere perlomeno ai più, poi quella democrazia di borghese di oggi che è abbastanza squallida e regressiva, e altre. Poi c'è anche la democrazia proletaria, che però ha avuto solo degli sprazzi di assegnato solo alcuni momenti storici, e poi anche quella è crollata sotto il peso o sotto gli errori, il peso degli errori o il peso anche delle pressioni internazionali. Insomma, democrazia francamente è una parola troppo ambigua, e se non è accompagnata da un altro sostantivo o comunque da una precisazione, francamente entusiasma poco. Difatti, perché appunto la democrazia in questo paese, come vedete, lascia pieno spazio ai poteri forti, alle aggressioni forti, al fatto che dei bambini e delle bambine nascono in carcere, chissà per quale decisione divina nascono in carcere, ci stanno i primi 3 anni, adesso 6 anni, perché la madre in quel caso è detenuta. Vabbè, chiusa questa parentesi, ne abbiamo parlato tante volte, torneremo a parlarne, ogni tanto esce qualcuno e fa: togliamo i bambini. Gente di governo, cioè della classe dirigente, ultimamente c'è stato anche un assessore del Comune di Roma che ha detto: noi del Comune di Roma, siccome c'è un grosso asilo nido a Rebibbia, che è il carcere di Roma, dove ci stanno 15-16 di questi bambini e bambine incarcerati 24 ore al giorno, ha detto: faremo una casa d'accoglienza per spostare, cioè, non è successo. Lo strillo è andato sui giornali, se ne è parlato, ma i bambini e le bambine continua a rimanere in carcere. Questa è la democrazia di questo paese. Poi a chi piace, ognuno ovviamente ha sullo stomaco il pelo che si merita, non è che vogliamo, c'è gente, ad alcuni piaceva pure il regime di Hitler, pace all'anima loro, perché spero che siano dall'altra parte degli alberi pizzuti. Comunque, a parte questo, dunque il problema qual è? È quello degli stati generali dell'esecuzione della pena. Questa grossa battaglia pubblicitaria è partito, per quelli che ovviamente si interessano in questa cosa, è lanciato dal ministro Andrea Orlando, che ha detto bisogna riformare dall'A alla Z, quindi dall'inizio alla fine, il sistema di esecuzione penale, cioè il sistema di quando uno è condannato, come si svolgerà questa esecuzione penale, come verrà applicata la sanzione penale quando uno viene condannato a un tot di anni, poi come si svolge questa, verrà buttata adesso nelle carceri senza niente, oppure gli daremo, verranno riformate qua e là delle cose. Quindi il programma è stati generali sull'esecuzione penale. Ora, l'esecuzione penale ha due rami grossi: esecuzione penale interna, intramuraria o interna, quella che si fa in carcere; esecuzione penale esterna, quella che si svolge fuori. Si svolge fuori a tutti quei detenuti e detenute che vengono condannati a misure alternative, perché rientrano nella legge che applica le misure alternative ad alcuni tipi di reati, ad alcune quantità di condanne, oppure alla fine della condanna. Questo è complesso, potremmo anche elencarli tutti i meccanismi che permettono la misura alternativa in alternativa al carcere. Comunque ne abbiamo sempre parlato, per esempio con gli ultimi decreti, 4 ne hanno fatti uno successivo all'altro, i cosiddetti svuota carceri, che sono serviti a far scendere la popolazione detenuta dal numero di 70.000 che era arrivato intorno al 2011, alla fine del 2011, inizio 2012, e che ha fatto scattare la sanzione durissima da parte della Corte Europea allo Stato italiano. sanzione che lo Stato italiano ha dovuto pagare, ovviamente con i soldi nostri, però l'hanno pagata loro e hanno perso un po' la faccia, perché questa cosa è andata sulla stampa internazionale. La stampa internazionale ha detto: lo Stato italiano tratta i propri detenuti in maniera incivile, barbara, e quindi la figura da Peracottari. D'altronde Peracottari sono, non so chi non è di Roma non conosce questo termine un po' così dialettale, Peracottari, cioè cialtrone, oltre ladri, banditi che fanno i propri interessi e basta, ma sono anche, Peracottari vuol dire cialtrone, uno che sa solo vendere le perecotte. Una volta, tanti anni fa, chi c'ha qualche anno se lo ricorda, per i quartieri di Roma giravano delle biciclette con sopra una cesta e vendevano o i bruscolini e le frusaglie, i lupini, oppure anche le perecotte. Questo è, diciamo, come professionalità non necessario, un modo del tutto legittimo per guadagnarsi il cose. Però insomma, Peracottari vuol dire, in effetti la classe dirigente di questo paese è fatta di peracottari, oltre che di truffatori, banditi, bravi a fare le loro truffe, corruzione eccetera, e i propri interessi, meno bravi a cercare di gestire un sistema complesso com'è la gestione di una società nel corso del 2015. Dunque, quindi il ministro Orlando, volendo uscire da questo basso livello della classe dirigente italiana, ha lanciato questi stati generali. Richiamano un po' i famosi stati generali che, ricordate, una decina, quindicina d'anni prima della rivoluzione francese, intorno al 1775-80, il buon Luigi, si fa per dire buono, Luigi XVI lanciò per frenare gli impeti rivoluzionari della borghesia più avanzata. Chiamò gli stati generali, disse: non la facciamo noi la riforma, cambiamo tutto. In realtà non riuscì a cambiare niente, perché la parte più radicale, appunto, della borghesia disse: vabbè, ti spazziamo via te e tutti i cialtroni che ti leccano i piedi. E nel 89-90 si scatenò la rivoluzione in Francia. Anche stavolta sarebbe auspicabile che fosse così, perché degli elementi comuni ci sono, per esempio, i stati generali di Luigi XVI, ricordate che convocò il primo, il secondo e il terzo stato, cioè nobiltà, clero e diciamo borghesia avanzata, come quelli grossi commercianti, grossi trasportatori eccetera. Mancava il quarto stato, di cui poi tutta l'epica in qualche modo si è trasformata. Per quarto stato si intendeva il proletariato, però in realtà gli artigiani, cioè, però lì mancava anche il basso, il piccolo commercio, la piccola artigianeria, cioè la borghesia, diciamo borghesia come rapporto con gli strumenti di produzione, però di basso livello. E questi hanno ribaltato tutto, poi clero, nobili eccetera eccetera. Anche stavolta sembra che il buon Andrea Orlando abbia fatto lo stesso errore, perché ha convocato gli stati generali chiamando esperti, tecnici, professori universitari, giuristi, criminologi eccetera, ma non ha chiamato i detenuti, non li ha sentiti, poi sotto la pressione di tanti democratici appunto ha convocato delle associazioni, cioè responsabili di associazioni che si occupano dei detenuti, ma non sono i detenuti. Quindi anche qui manca uno Stato, cioè quelli che poi la galera soffrono, detenuti e detenute. E quindi potrebbe essere che per similitudine di qualche secolo fa saltasse anche, cioè questi stati generali fossero l'inizio della tomba di questo sistema, magari, ma è difficile. Comunque, a parte la battuta, in realtà non li ha convocati. Cioè, per esempio, siccome c'era la pressione dei radicali eccetera, ha chiamato Rita Bernardini, conoscitrice del carcere, che si dà da fare in molti problemi sul carcere e che in qualche modo si occupa di associazionismo legato al carcere, e gli ha detto che insomma l'ha chiamata a dirigere uno dei tavoli. Questi stati generali dureranno 6 mesi, sono già iniziati a fine maggio, e è composto di 18 tavoli, ognuno su un argomento particolare. 18 tavoli. Ha chiamato Rita Bernardini e gli ha proposto di dirigere, coordinare il tavolo sull'affettività in carcere, perché è importantissimo l'affettività in carcere, però insomma non è un problema centrale, stante il carcere. Se rimane il carcere così com'è, che devasta, distrugge, annienta, È chiaro che poi dare un'ora al mese, un'ora di affettività, un'ora su quante ore ci sono in un mese, fate voi il calcolo, insomma fa un po' ridere. È una piccola, è come se una ferita lunga mezzo metro ci metti quei cerottini piccoli da un centimetro. Vabbè, insomma, questo ci vabbè, quindi c'è solo questa critica della Bernardini che dice: sì, ringrazio Orlando che mi ha nominato responsabile di questo tavolo, però quali sono gli indirizzi? Loro i radicali, e quindi anche Rita Bernardini, mettono l'accento sulla legalità del carcere. È un concetto che non riesco a capire da quando Pannella lanciò questo problema di far tornare il carcere alla legalità. A parte che far tornare, dovrebbero ricordarmi una data di quando è che il carcere è stato aderente a quella legalità che dicono loro, cioè ha rispettato dall'A alla Z i diritti delle persone detenute. Io ritengo mai, ma non solo in Italia, in nessun paese del mondo, in nessuna carcere del mondo è mai stata rispettato il diritto dei detenuti. La parola diritto in carcere è pericolosa, perché chi è stato in carcere, questa è una cosa che Orlando non sa, lui non c'è stato in carcere, non è che gliel'auguro il carcere, però potrebbe domandare. Allora, la parola diritto in carcere non si deve pronunciare, perché se un detenuto o una detenuta di fronte a una guardia, a un direttore, richiedendo qualcosa, nomina la parola "questo è un mio diritto", bene che vada si prende uno schiaffone da una guardia, male che vada viene messo sull'elenco dei cattivi, e quindi per quello avrà tutte le cose peggiori, perché il carcere non può basarsi sul diritto dei detenuti, è un'offesa alle persone detenute, è un sistema che si basa sull'offesa centrale, cioè sul distruggere, annientare, annichilire, quindi far chinare la testa alle persone detenute, perché diventino degli zombie, delle persone che non abbiano più la capacità di tenere la schiena dritta e di esprimere i propri diritti, e quindi di essere succubi a un diritto, a un comando, di essere degli esecutori di un comando: lavora, lavora, esci, esci, entra, entra. Cioè il carcere è quello, è un po' come il meccanismo con cui credo si addestrano gli animali, alcuni animali per da circo, o anche i cani da droga. Non è un bel, provate a vederli, non sono cose molto belle, c'è una violenza spaventosa. Ecco, il carcere è una cosa del genere, serve ad addestrare chi? Dei cittadini che non hanno rispettato le leggi a rispettare le leggi come se fossero divine, intoccabili, ad accettare l'obbligo della legge in qualunque situazione gli crei, anche se gli fa tu perdi il lavoro, stai a salario zero, non hai di che mangiare, non ti è permesso di rubare nemmeno un panino, devi morire di fame. Ecco, questa è la legalità. Ora, perché la legalità dice questo: siccome tu non puoi rubare, puoi solo comprare del pane, la frutta, eccetera, per nutrirti, e se non hai soldi, perché metti che ti hanno licenziato, cosa che avviene tutti i giorni in questo periodo, e che non trovi altri lavori in questo periodo, quindi tu hai solo una scappatoia: buttarti nella attività estralegale, poi rubare un panino, un po' di frutta, una fetta di formaggio, oppure appunto spacciare la droga, oppure fare altre cose, che però quella cosa è illegale ovviamente. Quindi la legalità ti dice che se tu perdi il salario e non hai a chi rivolgerti, devi morire di fame. Ora ditemi voi se questa cosa è accettabile. Nemmeno le antiche religioni dicevano che rubare quando si aveva fame era un peccato, dicevano che quando si ha fame, se stesso o i propri figli, o se stessa i propri figli, si può anche rubare, purché soltanto per nutrirsi. Quindi pensate, invece il diritto borghese è un po' più duro, un po' più cattivello, non perché le religioni antiche ne fossero belle, sono state la distruzione dell'umanità, però comunque anche questi non scherzano. Va bene, questo è quindi gli stati generali. Che cosa avviene? Avviene che stanno andando avanti, non se ne sa niente. Questi soloni, questi grandi personaggi, stanno discutendo su tutti gli argomenti, sulle criticità, così l'ha detto. Cioè, il ministro Orlando ha detto: dobbiamo, dividendoli in settori, l'architettura carceraria, come si deve fare appunto le misure alternative, il lavoro in carcere e lo studio in carcere, tutti questi, ogni tavolo studia un problema. E il punto centrale è trovare le criticità di questo, di ciascuno di questi argomenti. Criticità significa i punti dove non funzionano, dove il sistema delle leggi e dei regolamenti stridono, non permettono di effettuare qualcosa che poi funzioni. Questa è la criticità. In realtà qui il carcere non è che non funziona, non è che quello che dicono i regolamenti funziona o non funziona. Il problema è che i regolamenti a volte sono messi lì tanto per darsi una parvenza di legalità, appunto, però poi il carcere è fatto, è come struttura, come personaggi che lo gestiscono, come ideologia che lo circonda, come cultura che lo sostiene, il carcere è fatto per distruggere le persone. I see trees of green, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day and a dark sacred night, and I think to myself, why? Colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of the people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? What there is. I hear babies cry, I watch them grow, they'll learn much more than I'll ever know, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. E allora, 15:28. Come vedete, la canzone l'ho messa proprio per far capire come la bontà di parole messe una in fila all'altra, di sentimenti, di note, di così braccia aperte e buttate là, in realtà stridono con una realtà che quella bontà non riesce a cambiare. Quindi è bontà falsa, è bontà finta, è bontà che non esiste. L'unica bontà vera è quella che riesce a modificare l'esistente. Le brutture, almeno le brutture dell'esistente, e qui ci siamo tutti. Allora, mentre qual è la contraddizione che stride? Da una parte ministro Orlando, quindi ovviamente con tutto il governo, hanno deciso di fare questa stati generali dell'esecuzione penale, cioè, quindi ridiscutere tutto il sistema con cui si fa la galera, con cui le persone condannate potranno fare la galera, dicendo dobbiamo eliminare le criticità, cioè le cose che stridono con la legalità, con il rispetto ai diritti delle persone detenute, e quindi cambiare, fare un sacco di riforme per cambiarle. Buoni intenti, uno dice, per carità. Nello stesso tempo le stesse persone Poi qualcuno dirà: ma allora sono schizofrenici? No, no, attenzione, le stesse persone, quindi lo stesso governo, che non so 10.000 persone, sono una decina di persone che stanno lì, il governo dice: verranno triplicate le pene minime contro furti e scippi, basta scarcerazioni. Lo dice il governo, cioè le stesse, probabilmente, ovviamente, parlandosi anche qui di pene e di carcere, chiaramente il ministro Orlando ne è stato investito. Quindi le stesse persone fanno una cosa e il suo contrario. Sembra così una schizofrenia, però non è così, entriamoci dentro. Allora, questo l'articolo dice così. Allora, adesso messa su carta, in procinto di essere formalmente depositata alla Camera in Commissione Giustizia, dove stanno discutendo gli stessi, no? Dove si discute le riforme del processo penale, quello che abbiamo detto, no? La riforma sia del processo penale che della esecuzione penale. Sapete, quando uno viene in cappa, diciamo così, oppure volontariamente trasgredisce una legge, attraversa tre periodi: l'arresto dalle forze dell'ordine, polizia, carabinieri, eccetera, il processo penale, tutti i meccanismi con avvocati, giudici, più pubblici ministeri, eccetera, che decidono se sei colpevole e quanti anni devi scontare, e il terzo è l'esecuzione penale, cioè dove verrà eseguita questa condanna, in che modo, con che diritti perderai, quali invece manterrai, e così via. Questi tre momenti: arresto, processo penale e esecuzione penale. Ti ricordate che questa è la trinità che abbiamo sul groppone in quanto esseri umani di questo sistema, di questo mondo, di questa epoca. Vabbè. Può capitare, quindi è bene sempre conoscere. A molti è già capitato, noi ci rivolgiamo a quelli che stanno in carcere, che sono capitati sotto questa sferza di questa trinità. Dunque, quindi ha detto: sta per materializzarsi, dice l'articolo, una forte stretta del governo, quindi gli stessi che fanno gli stati generali, la stretta del governo su scippi, furti in casa e rapine, che sono i reati, secondo il governo, più avvertiti dagli italiani. Ora hanno fatto un sondaggio, che minano la sicurezza della propria casa, della proprietà, quindi, e la possibilità di muoversi liberi in strada. Vabbè. Ora, la possibilità di muoversi liberi in strada, sapete questa società quanto, perché non è permessa l'immigrazione, non è permesso spostare, insomma, quindi, però dicono che sono le furti, rapine e scippi che impediscono la possibilità di muoversi liberi per strada, bontà loro. Vabbè. Il problema è che, detto tra di noi, insomma, molto volgarmente, con questi provvedimenti cercano voti e li prendono i voti, perché le paure ancestrali delle persone che stanno male non riescono a capire, a trovare il responsabile del loro malessere, che può essere quello che ti ha licenziato, il governo che ha fatto il Job Act, quindi ha dato libertà di licenziamento agli imprenditori, ai padroni, oppure sempre altri problemi del governo che stringono il credito e quindi fanno chiudere fabbriche o imprenditori che spostano la produzione da una parte all'altra dell'Europa o addirittura fuori l'Europa. Insomma, non questi sono i nemici, ma è semplicemente la possibilità del furto, dello scippo, del furto in appartamento. Questi sono i nemici che dicono i governanti, e quindi per cercare voti dicono: aumenteremo, triplicheremo le pene e basta con scarcerazioni. Allora, tutta questa cosa qui va bene, prenderanno voti le persone più stupide di questa terra, i nostri concittadini un po' stupidotti daranno i voti, perché dice: vedi, questo è un governo duro, perché in realtà che cosa succederà? Che cosa hanno successo? Cambieranno gli articoli. Per esempio, il furto in abitazione e furto con strappo, cioè lo scippo, ovvero l'articolo 624 bis del codice penale, andava da un anno a sei anni. Un anno era la minima, sei anni la massima. Loro triplicano che cosa? È la minima, non possono triplicare, che 3 per 6 18 diventa più grave di un assassino. Mi pare che portare uno scippo più grosso di un assassino, mi pare un po' che, insomma, può darsi che lo faranno, e per cercare voti questi fanno di tutto. Diranno pure che Cristo è morto di freddo, come si è un modo di dire romano anche questo, non dei cattolici fedeli, ma un modo di dire, perché insomma, per dire che uno racconta proprio le bugie, perché se è esistito quell'uomo là che si chiama Cristo non è certo morto di freddo, l'hanno inchiodato in una croce, però si dice, no? E la stessa cosa stanno facendo qui, però quindi triplicano sì la pena, ma alla minima, quindi invece che il 624 bis, quindi quello che punisce il furto in abitazione e il furto con strappo, cioè quando ti portano, ad esempio, che guidi con la sinistra fuori dal col motorino, ti portano via l'orologio dal polso, questa è la gravissima violenza, che per carità non è una cosa piacevole, ma non è che hanno triplicato il minimo, quindi invece che da 1 a 6 anni sarà da 3 a 6 anni, quindi hanno triplicato il minimo. Che cosa succede? Non tantissimo, succede che alcune persone, se il primo reato eccetera, che prendendo meno di 2 anni, cioè se il giudice, perché è stata una cosa così, soprattutto fatta da giovani, al primo reato gli dà il minimo, quindi dava un anno e mezzo, 2, con quella al di sotto dei 3 anni non fa il carcere, vai indirettamente in misura alternativa. Adesso è costretto a non dare meno di 3 anni. Anche con 3 anni però si va direttamente in misura alternativa, non in carcere. E soprattutto con la riforma della custodia cautelare, che abbiamo raccontato dettagliatamente qualche trasmissione fa, che comunque possiamo riraccontarla, la custodia cautelare è stata rivista, perché tra le sanzioni della Corte Europea al sistema penale italiano, una c'era appunto il sovraffollamento delle carceri, la lunghezza dei processi e soprattutto l'alto, era scritto proprio, soprattutto l'alto numero di persone non ancora condannate in carcere, cioè quelle in custodia cautelare, carcere preventivo, chiamatelo, è quello che si mette una persona in carcere mentre si sviluppa il processo penale, quindi non è ancora condannato o condannata, non si sa se è colpevole o innocente. Infatti molti di questi stavano in carcere, poi risultavano innocenti e uscivano fuori, e i giorni fatti in carcere dicevano scusate, non fa niente, servono a crescere. Poi ovviamente sotto le sanzioni dell'Europa hanno dovuto ridurre e hanno riformulato la custodia cautelare. Adesso, soprattutto per i reati il cui massimale non supera 6-8 anni, e anche per la gran parte dei reati cosiddetti comuni, se si esclude mafia, camorra, criminalità organizzata, spaccio internazionale, terrorismo eccetera, per tutti gli altri reati è quasi impossibile mandare le persone in carcere prima della definitiva condanna, quindi in tutto l'iter processuale la persona dovrà stare in situazione di controllo ma esterno, con le firme o con gli arresti domiciliari, con l'impossibilità di muoversi dal proprio comune, cioè le varie forme che graduate secondo la gravità che il giudice attribuisce all'ipotesi di reato. Questo è il meccanismo. La legge da poco, ad aprile, è stata formata la riforma, quindi queste persone non andranno in carcere. Allora basta scarcerazioni, era appunto la buttata del governo per dire mo ci prendiamo un po' di voti da quelli che vogliono che si metta in galera mezzo paese, però in realtà non è che cambierà granché, perché appunto a meno che non dà il massimo degli anni, che se dà 6 anni certo a quel punto un po' di carcere se lo fanno, però è ovvio che il meccanismo non è che si aumenteranno di tanto le persone in carcere, si aumenteranno di tanto le persone sotto controllo penale esterno, quello sì, perché appunto con 1 anno e 2 anni prendi la condizionale, cioè non stai in controllo penale, stai soltanto così in una situazione di limbo in cui devi soltanto non commettere altri reati, però ti puoi muovere liberamente, mentre invece in misura alternativa stai controllato 24 ore su 24, e qui si legano i due meccanismi. Con questo aumento delle pene per furto, scippo e furto in appartamento, fatta proprio in questi giorni dal governo, e che permetterà di avere tante più persone in misura alternativa. Perché questa scelta? E questa collima con l'indirizzo generale degli stati generali dell'esecuzione penale. gli stati generali di esecuzione penale puntano ad non ad aumentare le carcerazioni, ad aumentare la repressione, che sono due cose ben diverse, perché noi siamo abituati purtroppo a ragionare, a fare un'equiparazione: più repressione uguale più carcere, perché è stato così, il fascismo è stato così, prima ancora, vabbè, non ne parliamo, manco si conoscono i dati, comunque col fascismo era così, repressione, carcere e confino, quello davano, carcere e confino, e erano arrivati a un numero spaventoso i carcerati durante il periodo fascista, oltre 100.000, cioè, vabbè, poi cominciata, diciamo, la cosiddetta Repubblica Democratica, e più o meno la cosa ha funzionato sempre così: più repressione uguale più persone in carcere. In realtà hanno capito che non funziona così il controllo dell'ordine sociale, perché loro mirano a fare in modo che l'ordine sociale non venga scompaginato né dal disordine sociale, cioè dalla cosiddetta criminalità diffusa, né dal conflitto sociale, quello collettivo fatto intorno a problemi, occupazione della casa, scioperi, picchetti, manifestazioni, eccetera. E quindi devono mantenere l'ordine sociale, non tanto riempire le carceri. E hanno capito, ma questa cosa è stata teorizzata alla metà del secolo scorso, nella prima metà del secolo scorso, quindi è vecchissima, però l'incapacità, la mancanza di coraggio degli uomini di governo, che se diminuivano il carcere sapevano di perdere voti da parte dei ben pensanti, quindi non l'hanno mai applicata. Qual è il meccanismo? Il meccanismo è quello di potenziare al massimo di misure alternative, mantenere ridotto la parte in carcere, perché così il controllo è maggiore. Basta sapere che cosa succede: una persona in misura alternativa, qualunque essa sia, lavoro all'esterno, semilibertà, affidamento ai servizi sociali, arresti domiciliari con lavoro, arresti domiciliari senza lavoro, cioè le mille forme di controllo penale esterno permettono alla polizia un controllo 24 ore su 24, cioè in qualunque momento della giornata possono piovere addosso a questa persona, se sta al lavoro, se sta a casa, se sta facendo una passeggiata, eccetera, e verificare se rispetta le condizioni di questa semilibertà e soprattutto con chi si accompagna. Le norme delle misure alternative, tutte le misure alternative hanno una norma precisa che le sostiene: è vietato accompagnarsi a persone pregiudicate, a persone sottoposte a controllo anche loro penale esterno, quindi altre persone in misura alternativa, e soprattutto a persone con i quali hai avuto delle imputazioni precedenti, cioè loro che vogliono controllare, con lo sviluppo enorme delle misure alternative, laddove controllare i territori, laddove si formano i gruppi di persone, di ragazzi o ragazze, o anche uomini o donne, non più ragazzi, che si organizzano e compiono attività estralegale, il furto, lo scippo, o lo spaccio, eccetera, eccetera. Questo è il meccanismo. Hanno capito che mettendo le persone in carcere non entrano nei territori, mentre invece mandando le persone in misura alternativa entrano nei territori. È chiaro che tutto questo va visto con tranquillità, perché è ovvio che diminuire con le persone in carcere sul piano umano va bene, è meglio che una persona se ne sta a casa sua o in giro nel quartiere suo, piuttosto che sta in carcere. Però e quindi dal punto di vista umano noi va bene, dobbiamo dire va bene, sì, diminuite le persone in carcere, aumentate le misure alternative, però se vogliamo capire dove va la repressione, quali sono le tendenze, dobbiamo seguire attentamente questo meccanismo, perché il controllo, la totalità del controllo avviene non attraverso lo sviluppo numerico delle carceri, dei carcerati e delle carcerate, no, assolutamente no, ma attraverso l'invasione da parte di speciali forze dell'ordine nei territori, laddove si realizza, perché nei territori dove si sta male, dove le banlieue o le periferie, dove la gente ogni tanto si incazza e fa le rivolte, i riot, cioè là avviene deve avvenire il controllo. Pensate, ricordate i riot a Tottenham e poi nelle banlieue francesi? Bene, loro vogliono mettere le mani dentro a quel sistema di relazioni sociali che poi intanto deflagra nel riot, per evitare che sorgano, che si sviluppano questi riot. Questo è il meccanismo, e l'aumento di queste pene non è che contrasta, quindi non sono schizofrenici, anzi sono in linea. Loro aumentano le condanne per avere più gente controllata, non in carcere, non ha importanza che sia in carcere, ma controllata, perché controlleranno la persona che va in misura alternativa e tutto il tutti coloro che hanno relazioni amicali, di lavoro, affettive con questa persona controllata. Allora, 15:48, quindi dobbiamo accelerare e siamo in chiusura. Gli argomenti sono tanti, come vedete. Allora, c'è prima di affrontare l'ultimo argomento, quello sul reato della tortura, che ancora sta in alto mare, sempre di più. Dunque, quello a proposito di questo, di questo aumento, triplicazione del minimo di alcuni reati, tipo quelli appunto cosiddetti di allarme sociale, che sono i furti, gli scippi e i furti in appartamenti, secondo il governo. Pare che insomma invece la corruzione non sia un allarme sociale, vabbè, comunque. Comunque loro dicono che sia questi, con questi prendono voti, anche perché hanno fatto questo provvedimento in contrapposizione alle polemiche della Lega e del Movimento 5 Stelle, che hanno criticato la legge precedente, quella sulla tenuità del fatto, cioè che diceva che i fatti di piccola entità, tenui quindi, e fatti la prima volta, cioè quelli che hanno i reati bagatellari, vengono chiamati in linguaggio tecnico, dove ci sono le scuse del colpevole alla vittima e la via libera, della vittima, questi con reati fino a 5 anni non vengono puniti. Hanno detto questo è un aiuto dato, allora hanno detto mantengono la tenuità del fatto, cioè che primo reato con reati non superiori a 5 anni, se ci sono le scuse, quindi il pentimento da parte del colpevole e il perdono da parte della vittima, c'è la non procedura, non procedimento penale, e mantiene questo il governo, però ha triplicato appunto i minimi dei reati cosiddetti allarme sociale. E un'altra cosa, in questo pacchetto c'è un'altra cosa su cui Orlando e Alfano, pensate un po', stanno lavorando, che è quello di eliminare, cioè per sveltire il processo penale che è molto lungo, ridurre di molto i ricorsi in Cassazione, proprio quasi fare in modo che si cancelli il terzo grado di giudizio a Cassazione. Questo accelererebbe di molto, però toglierebbe altro che diritti, una delle grandi possibilità che era una volta il fiore all'occhiello dei liberali del 7-800. Vabbè, però tutto può succedere, tutto sta succedendo, purtroppo se non c'è un'opposizione reale i liberali, quelli ottocenteschi, non ci stanno più, la sinistra non c'è più, e quindi tocca a noi fare in modo che insomma prendiamo in mano le gambe per fermare questa deriva. Comunque quindi si vuole ridurre al massimo i ricorsi in Cassazione, stringere anche sul processo d'appello, fare in modo così che alcuni processi penali finiscano al primo grado, casomai aiuta favorendo l'imputato, dicendo non ricorri in appello, ti diamo questa facilitazione, cioè una cosa un po' un mercato come già c'è. Insomma, questo stanno preparando, tutto questo provvedimento insieme a quello della triplicazione del minimo per furti, scippi e furti in appartamenti. L'altro argomento che dobbiamo veramente, che cui ho parlato perché è una cosa che urla vendetta, no? È una delle più grosse vergogne tra le tante che ha questo paese, non perché gli altri ne siano esenti, però noi parliamo di questo, e quindi allora, sapete che nonostante che l'Italia abbia firmato la Convenzione dei diritti dell'uomo dal 59, quindi vecchi ed erano governi molto reazionari, però l'hanno dovuta firmare altrimenti facevano una figura barbina, la Carta dei diritti dell'uomo, che prevede l'inserimento nel codice penale di ciascuno di quegli stati che hanno firmato quella carta, l'introduzione del reato di tortura, un reato esclusivamente applicato alle forze dell'ordine, che perché hanno delle persone in custodia, non è che escono per strada e piano schiaffi il primo che capita, perché a quel punto ne potresti avere altrettanti gli schiaffi, quello che fanno le persone singole, no? Possono andare per strada, aggredire uno, però si sottopongono anche non solo all'eventuale sanzione penale, ma anche al fatto che un amico di quell'aggredito ti dà altrettanti cazzotti e finisce. Il reato di tortura è applicato soltanto alle forze dell'ordine, perché hanno in esclusiva consegna delle persone. Una persona affidata alle forze dell'ordine è una persona che è sola in un ambiente delle forze dell'ordine, circondata da forze dell'ordine. Se quella persona viene sottoposta a pesanti sanzioni fisiche o anche psichiche per ottenere delle informazioni, quella cosa si chiama tortura, e quindi poi in tutti gli stati man mano l'hanno messa, in Italia no. Poi dopo tanto Bailam, anche qui gli hanno fatte delle rimostranze nell'Unione Europea, bla bla bla, hanno cominciato a discutere di un programma, è partito un programma scritto da Manconi ed altri che è stato svuotato nei passaggi, quindi è diventata una cosa penosa, in cui si rimane generale reato di tortura che può fare chiunque, non esclusivamente le forze dell'ordine, chiunque, che vuol dire, vabbè, per chiunque ci sta già il reato, se tu prendi una persona, la chiudi in un appartamento, c'è il sequestro di persona, se lo fa una guardia non è sequestro di persona, il meccanismo è quello, no? Tanto lo capisce anche una ragazzina delle scuole medie, ma i nostri parlamentari no, sono molto al di sotto, e allora oppure fanno finta e fanno i finti tonti per non pagare il dazio. Il problema è che cosa viene fuori? Hanno fatto alla fine un papocchio di legge, appunto, che fa veramente, che non rispetta le formulazioni dell'ONU, che diceva appunto delle cose precise, sono reati applicabili soltanto al comportamento delle forze dell'ordine quando hanno in mano una persona, un cittadino. Allora, vabbè, ci sono state, nonostante appunto la legge passata la Camera in prima lettura non diceva niente, era stata svuotata praticamente. Poi quando è andata al Senato c'è stata grosse manifestazioni di alcune di un sindacato di polizia, il SAP, uno dei più d'estrema destra, e anche della Lega di Salvini, e tanti, tutti i fascisti di questa terra sono andati a protestare: non vogliamo voi così, date una mano ai delinquenti se fate il reato di tortura, perché impedite a una persona, a una forza dell'ordine di prendere il delinquente per il collo e sbatterlo per terra. Già messa cosa, questa cosa l'ha detta Matteo Salvini, ha detto: se devo prendere, mettendosi nei panni della forza dell'ordine, se devo prendere per il collo un delinquente, lo prendo e lo sbatto per terra, se cade e si sbuccia un ginocchio sono cazzi suoi. Queste le parole eleganti del signor Matteo Salvini. Bontà sua chi lo vota, evidentemente, come diciamo prima, ognuno ha sullo stomaco il pelo che si merita. Il problema è che, vabbè, lui ha detto queste cose, di gente che dice che cose così o anche peggio ce ne stanno. Il problema è che però questa cosa ha avuto un seguito tra i parlamentari, gli onorevoli, le persone onorevoli. Si chiamano onorevoli perché dovrebbero essere onorevoli, cioè rispondere a degli onori, a dei valori. E quello che hanno risposto a questi valori qui, cioè io prendo per il collo un delinquente, lo sbatto per terra, se lui si sbuccia un ginocchio sono cazzi suoi. Questo è il valore che ha informato la gran parte degli onorevoli, anche di sinistra, non mi preoccupate che siano tutti lì. E poi la protesta del SAP, perché gli ha detto: io vi tolgo il voto, brava, le forze dell'ordine. E vabbè, insomma, e la commissione giustizia del Senato, col PD in testa, il PD è... Il SAP è d'estrema destra, sono fascisti, Salvini e Salvini, ma il PD dovrebbe essere un'altra cosa, così pensavamo da ragazzini. Poi con gli anni abbiamo capito che non è così. Comunque, molti pensano ancora così, ci mancherebbe altro, giusto, sarebbe giusto pensare così, però stavolta il signor PD, che la giustizia, la Commissione Giustizia del Senato è in maggioranza, ha detto: no, bisogna raccogliere queste tensioni, questi valori che vengono appunto di sbattere uno per il collo, prenderlo per il collo e sbatterlo per terra, e se si fa male sono cazzi suoi, no? I PD sono stati subito, come dire, richiamati da questa grossa tensione spirituale: prendimi un delinquente per il collo, sbatti per terra, se si fa male sono cazzi suoi. E sono stati sensibili, persone di sinistra sono sensibili, hanno detto: per carità, hanno ragione questi Salvini e fascisti in divisa, e quindi bisogna modificare quella bozza che già faceva schifo come era passata alla Camera, la peggioriamo ulteriormente. In sostanza, le pene previste, cioè il reato diventa un reato comune, non delle forze dell'ordine, comune, chiunque dà un cazzo a uno può essere tortura, se dai un cazzotto, un calcio, eccetera. E poi in più levano l'aumento di pena per le forze dell'ordine, che era l'unico elemento che la Camera aveva messo come riferimento alle forze dell'ordine. Il reato è comune, però le pene previste vengono aumentate se a fare questa aggressione è un componente delle forze dell'ordine. Anche quella cosa è stata tolta. Il PD ha capito quel grosso valore morale buttato lì da Salvini e dai fascisti del SAP, e quindi ha detto: io me lo faccio proprio, che posso ignorare un alto, no, così urlo di dignità. Vabbè, quindi evidentemente anche il PD è d'accordo che tu prendi un delinquente per il collo, lo sbatti per terra, e se si fa male sono cazzi suoi. Queste sono parole loro, scusate, non è che no, non è turpiloquio che facciamo qui. Il turpiloquio è di quelli che ancora votano per tutta questa gentaccia qui che calca il Parlamento italiano. Vabbè, e allora ancora peggio, mo vediamo che uscirà fuori una cosa penosa, veramente non ha nulla a che vedere con la convenzione di New York, quella che Amnesty International ci richiamava più volte perché non ha approvato un reato di tortura, e ci diceva pure come, non come lei voleva, come Amnesty voleva che lo facessimo, ma come la dichiarazione dell'ONU, la carta dell'ONU, aveva, la convenzione dell'ONU aveva detto che si dovesse fare, invece è saltato tutto. Vabbè, siamo quindi alla frutta, nel senso che ci tolgono anche da mangiare, mangiamo solo la frutta, che fa bene d'estate, per carità. Insomma, prendiamola a ridere, perché sennò qui ci dobbiamo mettere a piangere e forse scappare da questo paese, ma perché lasciarglielo in mano? Visto che il paese è bello, le persone no, però possiamo anche cercare di cambiarlo, no? Almeno cambiare le persone. Vabbè, questo è il testo. Vediamo. Allora, com'è questo? Poi ne parleremo ancora. Comunque va da 3 a 10 anni. fare la tortura in Italia si rischia è uguale a fare lo scippo. Avete visto? Hanno portato il furto e scippo minimo da 1 a 3 anni. Tortura il minimo 3 anni. Quindi se tu fai un furto o torturi una persona è uguale. Questi sono i valori che il PD ha raccolto, perché è un partito fondato su alti valori, e quindi il valore del denaro lo sa valutare. E questo è. Chiunque con reiterate violenze, reiterate una volta sola passa, dice vabbè io l'ho massacrato le botte una volta sola, che volete che sia, ma con reiterate violenze e minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, vigilanza e controllo, ovvero se non è così, rischia da 3 anni, come uno che ruba una mela, a 10 anni. Buona giornata e buona libertà a tutti e tutti.